laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capinere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cuore, chi va a cercar fortuna, vi troverà l'amore. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amore non sa tacere, e questa la canzone di mille capi nere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa d'una rosa, quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capriera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa la canzone di mille capi. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa la canzone.